Allora, l'Europa di oggi quanto deve al progetto Erasmus? Ma guardi, io credo tantissimo, poi soprattutto oggi, 25 anni di mobilità, devo dire anche silenziosamente, e dopo 25 anni ci accorgiamo che più di 2 milioni di giovani in questi 25 anni hanno avuto la possibilità di vivere un'esperienza importante, cioè di sentirsi generazione europea, di costruire la prima generazione di cittadinanza europea. Un'occasione importante che ha messo insieme la conoscenza, la cultura e, perché no, tante anche nuove occasioni in questi periodi poi di crisi. È importante ricordare ai nostri giovani che la dimensione del mercato del lavoro non può restare chiusa nelle frontiere dei singoli stati, ma che l'Europa resta e potrà essere una grande occasione. Lei è stato studente Erasmus, vero? Guardi, io sono stato uno dei primi circa 25 anni fa. E non le nascondo che da allora a oggi sono stati fatti dei grandissimi passi avanti. Basti immaginare che quando io decisi di partire non avevamo internet, non avevamo la possibilità di stare in contatto con le email, e quindi le nostre comunicazioni avvenivano per fax. Pensi che invece oggi un giovane, per fortuna, semplicemente collegandosi online in una delle nostre università, ha la possibilità di chiedere di poter partecipare al programma di mobilità Erasmus ed Erasmus Plus. Lei in questo momento si trova in Israele proprio per parlare di Erasmus. Dopo 25 anni c'è ancora il bisogno di diffondere il credo dell'Erasmus, o è una cosa che ormai è entrata nella consuetudine, nella quotidianità degli studenti universitari? Guardi, io credo, senza tanta enfasi, che l'unico vero grande progetto che ha riscosso enorme successo in Europa, progetto di carattere politico europeo, è stato proprio il programma Erasmus. Se lei sfogliasse un po' le ultime statistiche, gli ultimi sondaggi, si accorgerebbe che mentre c'è una tendenziale difficoltà, diffidenza in alcune fasce generazionali rispetto alla costruzione di questa fase politica dell'Europa, i giovani invece sono fortemente europeisti. E questo è molto importante. Su questi dati bisognerebbe riflettere, non ripetendo le solite affermazioni che è il momento di passare la mano ai giovani e che ne sarebbe veramente bisogno. Le pensi, per esempio, che in Italia i nostri costituenti avevano un'età media di 40 anni. Oggi la nostra classe dirigente ha un'età media di 63 anni. Questo vuol dire che siamo invecchiati di più di 20 anni. L'Europa, questa dimensione europea, questa voglia di cittadinanza europea, soprattutto delle nuove generazioni, è una carta molto importante da giocare. C'è bisogno di incoraggiare il programma, ma direi non tanto tra i giovani, ma soprattutto tra le università, tra i miei colleghi universitari. C'è bisogno di fare uno sforzo in più, di rendersi conto che le università devono iniziare a dialogare in maniera un po' più stretta ed efficace tra di loro, che le università hanno bisogno di aprirsi a questa nuova dimensione. Insomma, o diventiamo tutti università europee o siamo costretti a soffrire, ad arrancare in questa fase della nostra storia. Questa è una riflessione importante, perché solitamente si è portati a pensare all'Erasmus come una grossa opportunità per lo studente, invece è una vera opportunità anche per la stessa università. Ma non c'è dubbio, guardi, solo per citare i dati dell'ultimo anno di mobilità, lei consideri che dall'Italia, e immagini che l'Italia è tra i primi 4 paesi che garantisce un flusso numerico con standard molto alti in Europa, circa 25.000 persone italiane hanno avuto la possibilità di utilizzare i vari programmi Erasmus. Di questi 25.000, 20.000 sono gli studenti in mobilità Erasmus classica, cioè quegli studenti che decidono di partire, incoraggiati dalle università, per sostenere degli esami legalmente riconosciuti nelle università europee. Poi, degli altri 5.000, 2.500 sono studenti dell'Erasmus Placement. Che cos'è l'Erasmus Placement? È un'occasione per gli studenti di fine carriera universitaria per svolgere dei tirocini all'estero. 1.500 inoltre sono le mobilità dei docenti, dei professori che fanno delle esperienze di insegnamento all'estero, che portano a casa un'esperienza importante e che trasmettono e fanno circolare la conoscenza. E più di 500-600 persone invece sono i collaboratori degli staff Erasmus delle varie università, che hanno anche la capacità di condividere modelli di organizzazione diverse. C'è un dato che le vorrei citare. Mediamente quest'anno, sul dato generale, siamo cresciuti di circa il 3,5% sulla mobilità. Ma Di questo 3,5%, circa il 18% è per l'Erasmus Placement. Cosa vuol dire? Che i nostri giovani stanno finalmente intuendo che è importante la mobilità per sostenere gli esami, ma è importante il placement, cioè che l'Erasmus può essere anche una grande occasione per il passaggio dalla fine della carriera universitaria all'inserimento nel mondo del lavoro. Gli stage formativi, le esperienze formative in imprese o aziende europee o in centri di istituti di ricerca europee sono sempre più richiesti dai nostri studenti, soprattutto italiani. E conoscendo la differenza culturale dei giovani italiani ad uscire, questo è un grande risultato su cui, ripeto, dovremmo riflettere un po' tutti, ma a cominciare dal sistema universitario italiano.